Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. L'avevo già annunciato la settimana passata. So che ancora, magari per un paio di settimane, prenderò il flusso di ritorno. Rivedrò le stesse persone che mi è capitato di vedere, magari a giugno, luglio, andare impavidi verso il loro destino vacanziero, ritornare. Vedrò in loro il leccarsi le ferite di un'estate deludente o vedrò la gioia di un accadimento, come appunto leggo nella Miss di Lady Pink. La ricordate? La signora Rosa, la ragazza che saltellava di fiore in fiore alla ricerca dell'uomo della vita. E ancora Lady Pink è vestita di rosa, ma ancora ben attivo il mantenitore di abbronzatura. È bella lucida, è lì. E tronfa e contenta e non aspetta altro, invitandomi con lo sguardo, che le faccia qualche domanda sul bottino della sua estate. Dal tuo tono e dal tuo volto deduco che tu abbia passato un'estate movimentata. Un'estate tra proposte di matrimonio, sciabolatori incalliti, la richiesta di essere inseminata e cosa del geco. A te la scelta. Cioè la richiesta da parte tua di essere inseminata? Il mio ex qualche giorno fa mi ha chiamato, attenzione, erano 6 o 7 mesi che non lo sentivo. E per quanto tempo vi eravate frequentati? 2 anni, ma 10 anni fa. E quindi il mio ex... Ma più o meno quanti anni? No, io mi vergogno veramente. Vabbè, dillo, 60? Ecco, qualcuno in più. 62? E... 3. Vabbè, c'ha la mia età, che vuol dire? Ti vergogni? Ti vergogni anche di me? No, vabbè, insomma, cioè, che vuol stare adesso? No, entra nel particolare. No, mi interessa per la categoria. 62 anni un uomo è da buttare. Beh, non è da buttare, ma se vuole fare un figlio, cioè tu capisci che spingo 2 carrozzine, la sua e quella del figlio. Sì, cioè, questo è vero, questo ecco, ci sta. Certo. Ecco. E quindi Morale della Favola ha avuto questa brillante idea di scientificamente, no? Di mettere in chiaro questa sua decisione di voler diventare di nuovo padre alla sua età. E che vorrebbe farlo con me. Considera che non abbiamo più rapporti da quasi 10 anni. Ma te l'ha detto dopo l'atto della ripresina o prima? No, niente, non c'è stata manco la ripresina, capisci? Cioè lui è partito così di punto in bianco. Io adesso non so se sia una questione di demenza senile o si rende conto che comunque si avvicina al momento clou di salutare questa vita terrena. Non lo so. Ma fammi capire, aveva una provetta in mano o aveva in mano l'oggetto necessario organicamente parlando? È stato tutto una cosa molto telefonica e auguro insomma che comunque l'oggetto ce l'abbia ancora e soprattutto funzionante, però lui mi ha detto che si prende ancora questi 4 mesi e per Natale deciderà se io sono d'accordo di fare questo figlio. C'è cose surreali. No, veramente, non lo so, sono ormai sconcertata. Ma non è che sarà una scusa, che in realtà vola soltanto una ripresina e l'ha ammantata con questa aura romantica del figlio. Basta dirlo, cioè che ci diamo un appuntamento, che ci vediamo, che ci facciamo un giro in giostra, benissimo, ma tutto sta manfrina sul figlio. Poi ovviamente noi donne, che siamo molto soprattutto donne di 40 anni che non hanno ancora avuto figli, siamo molto sensibili a questo argomento, non ti posso negare che comunque è stato abbastanza penetrante come argomentazione. Beh, usi un verbo troppo nobile, direi. Deludente, mosciante, triste, squallido, non lo so. Non lo so. E quindi adesso ci prendiamo questo momento di pausa. Io, oddio, non so da che cosa devo prendermi un momento di pausa, però in questo suo momento lui in questi 4 mesi deciderà se donarmi il suo seme o meno. Ah no, perché è convinto anche di farti un regalo. Ma penso di sì, ovviamente tutto sarà stipulato con un contratto, perché a questo punto lui è un grande uomo d'affari, un grande businessman, per cui sai, le relazioni sono quelli di avere un'utilità poi alla fine, come tutti i grandi uomini d'affari. Sì, ma scusa adesso, nulla toglie, non ti sentire offesa, ma se fosse un grande uomo d'affari e la razionalità e il profitto fosse il suo scopo, andrebbe da una ventenne di un paese del terzo mondo, farebbe il figlio, sarebbe facilissimo. Ma anche non vedo perché dovrebbe impegnarsi con una persona scafata che lo conosce, quarantenne, quindi per lei è particolarmente impegnativa la cosa. Per me era una scusa, biechissima scusa, per far finta che lui in realtà è mosso da un istinto di riproduzione, avrà visto la campagna del nostro ministro della salute, che non lo so. Comunque tu sottovaluti la pura razza piemontese, caro il mio ragazzo. Sai che la razza piemontese comunque soppianta anche le ventenni russe. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Non credo che tu fai il figlio e poi così lasci perdere, poi ti devi mantenere a vita. Vabbè, ma lo farebbe anche con una russa, almeno rimaniamo. Ma no, ci sono dei circuiti scellerati quanto vuoi, ma se lui è una persona cinica li conoscerebbe, basta pagare, ti prendi il figlio, poi fine, chi sei visto, sei visto. Te tutta la vita, anche l'obbligo morale, tu verresti sempre a chiedergli qualcosa, tu mi hai fatto fare un figlio, quando lui poi è sulla sedia a rotelle col catetere lì, tu vai in giro e dici, vedi tuo figlio, adesso tu dici cambiami il pannolone, no non posso, devo già cambiarlo al bambino, capisci, triste. No, vabbè, ma tu non consideri neanche che in alcune persone c'è una forte componente masochista. Ecco, vuole incamminarsi una strada che per lui sarà pericolosissima, faticosa. Ma saranno un po' cazzi suoi, a me l'importante è che mantenga il figlio e che si trovi una badante quando ora. Poi allora ha colto nel punto giusto, ti conosce bene, tu ci stai pensando. Tu scherzi. Però scusa, l'affare ci sarebbe, perché tu c'hai un range di 20 anni a dir tanto, poi o rimani vedova o tanto se lo portano via in qualche... Spero meno. Beh dai, adesso scusami se permetti, non guardare le mie mani dove vanno, quasi un mio coetaneo, 20 anni, ecco. Non so, vabbè. Vabbè, insomma, comunque l'importante... No, diciamo 20-30 anni, bene o male, ce l'hai presente davanti nella sua forma più o meno respirante, forse anche in maniera autonoma. Però alla fine, dai, ti trovi un figlio di 20 anni, un padre che ormai non esiste più, un assegno a vita perché poi dovrebbe farti suo erede universale, comunque sia, se la madre del figlio, tutto sommato con quello che gira in giro. Ma infatti lo sto valutando in modo cinico, ma lo sto valutando. Beh, cinico, lui è stato il primo cinico, giustamente tu rispondi in maniera cinica. È chiaro che non, nemmeno lontanamente c'è qualcosa che assomiglia soltanto velatamente a un atto d'amore o anche di semplice considerazione dell'essere umano. Lui ha bisogno di un'incubatrice, sceglie te, forse perché già ti conosce così faticamente, forse sì, è l'abitudine, poi sei di fianchi generosi, quindi dice è una buona fattrice, pensare a questo. Esatto, e quindi vediamo, abbiamo ancora 4 mesi per decidere. Vabbè, diciamo, questo è un assegno che potrei riscuotere fra 4 mesi, questo è l'ex. Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. E quello che ti ha chiesto in moglie? Ah, questo è fantastico. Nel giro, ma tra l'altro è stata una congiunzione astrale decisamente curiosa, perché tutto si è svolto in un paio di giorni e a distanza quindi di 24 ore mi telefono una persona con la quale collaboro, che è un l'indico per il quale io mi occupo della sua comunicazione dell'azienda, delle sue aziende. Giovane, questo più giovane immagino. Molto giovane, anzi più giovane di me, che ha 40 anni e senza mezzi termini, vabbè, insomma, si dichiara e dice che nel breve tempo, nel più breve tempo possibile, avrebbe fatto 1,5 milioni di euro per comprarmi, tra virgolette. Insomma, le dinamiche adesso musulmane io non le so, non mi interessa. Comprarti è un po' difficile. A chi gli dava questi soldi? A mio padre, al capo famiglia. Sono un po' l'uomo. Da darli a te direttamente, era meglio. Eh no, perché è la famiglia che li deve prendere in dote. Mi dava questo 1,5 milioni di euro. Al che ovviamente, considerando che sono procace, che sono bionda, che sono italiana, che ho anche 44 anni, quindi l'esperienza conta, 1,5 milioni francamente mi sembrava poco, un po' riduttivo. E quindi ho rilanciato che se mi voleva veramente sposare almeno un 5 milioni di euro e almeno una ventina di cammelli, perché così avremmo iniziato a ragionarci, perché così 1,5 milioni... brutto lì, buttato lì dentro. E lui come l'ha messa? Come ha preso il rilancio? Che lui, il rilancio mi ha detto che lui ha le garanzie per arrivare alla cifra. A me è venuto veramente da ridere, cioè, ma li contro tutti io questi fatti scatenati. Comunque ci starebbe quasi quasi. Sì, assolutamente. Ma ha preteso, diciamo, degli assaggi o ancora è tutto sulla parola? È ancora tutto sulla parola e rimarrà tutto sulla parola. Però guarda, su quello che vedo finora ti proporrei questo modello di business. Fai fare ai tuoi genitori una fideiussione per 4 milioni di euro a tuo favore. Gli fai incassare 5 milioni, con 1 milione ci vivono felicemente fino alla fine dei loro giorni, così non c'è più il problema dei genitori. Ecco. Ti sposi il libico, ti fai ingravidare dall'ex. Dal mio ex. Così quello ti lascerà comunque qualcosa, prendi due piccioni con una fava più o meno, anzi ecco. Uno e mezzo. Vedi, è sempre una questione di piccioni poi alla fine, ma a me piacciono le aquile perché i piccioni volano in gruppo. Un altro ritorno, probabilmente non dalle vacanze, ma dalla necessità professionale di capire che è caduto in qualche vacanza o in qualche viaggio di lavoro, in qualche trasferta professionale non propriamente limpida, il signore dell'Atlantica Investigazioni. Questa volta mi provoca, ha ben visibile sulla sua valigetta il brand della sua ditta, l'investigatore, perfettamente calato nel suo ruolo, con i suoi occhialoni neri, con i suoi 1,000 marchingegni da spionaggio, mi sta accanto, mi guarda e simula di sorvegliarmi, ma in realtà è impegnato in ben altro lavoro. La vita sociale è normale, lo dico sinceramente, mi stai anche simpatico, anche ti conosco. Grazie. Da 5 minuti, ma averti come amico, te lo dico sinceramente, avrei un po' di come avere l'amico poliziotto, è amico, ma è sempre un poliziotto, lo sai, l'amico investigatore, guarda, quando ma eri solo più che giovane. Mi guardi addosso, già mi vedo, già mi sento, no. Ognuno di noi ha sempre, figurati, delle macchine, la propria vita, bestiali, comunque vedi tutto, cioè, vedi questo un domani potrebbe, parla con me, guarda, e magari mi infila dentro la borsa, no lo so, però lo so, no, capita. No, ho capito, guarda, c'è una donna che si sposa con te, sa che comunque deve stare molto più attenta quanto una qualsiasi moglie. Ma mia moglie è la mia migliore amica, quindi sì, insomma, vabbè, diciamo tutti questo, certo, chiaro. Però certo, no, in passato avevo il problema. Il signor Landrulo che diceva, una bruciata e una trentina, capito? Quando ero piccolo vivevo il problema del fatto che molti consideravano la mia attività come quella della polizia. E l'infamone, così non il poliziotto, queste cose qua. Esatto, lui è amico della polizia, quindi invece, contrariamente, tu gli stai è la polizia che controlla gli investigatori affinché svolgono il loro lavoro in maniera lecita. Quindi non è un tesserino da investigatore te, non la può. Legge lo prevede, il DL 269 del 2010 prevede che insomma un tesserino che però non è stato mai stampato dal ministero, e quindi insomma non... è come quelli che ti vengono a bussare per farti pagare la bolletta del gas dicendo che sono chissà che, hanno un badge, non puoi niente, non puoi esibire nulla. No. Metti caso, tu mi stai pedinando, ma accorgo che tu mi stai pedinando, mi dico scusa, tu da me che piffero vuoi, tu che mi rispondi? Negare sempre fino all'evidenza, e immediatamente mi allontano, perché non voglio sicuramente non voglio causare molestia, perché quello è il reato. Anche se sono l'investigatore privato, dal momento in cui tu te ne accorgi non mi puoi seguire, non ti seguo. Ma anche l'esperienza ti porta anche a pesare il caso, sì. No, perché uno potrebbe anche non chiamare la polizia, cioè questo mi sta seguendo da due giorni, me lo vedo. Ma guarda, noi abbiamo dei parametri operativi e ci basiamo. Di alternate, penso. Sì, abbiamo, sì, certo, è chiaro, mezzi e uomini. Però se una persona si guarda lo specchietto e nota il mezzo, immediatamente quel mezzo è bruciato. Bruciato, noi lo chiamiamo, diciamo, questo è il termine che usiamo. Quel mezzo si ferma, perché è chiaro che il rischio di causare comunque un malessere alla persona che stai seguendo, o comunque di compromettere l'esito del servizio, è molto forte. Poi sai, forte. Uno più al sorcio in bocca più guardingo, comincia a vedere la stessa macchina intorno a casa da due o tre giorni. Fortunatamente abbiamo i localizzatori, il problema è nell'appostamento, dipende sempre da dove diciamo viene organizzato l'appostamento. C'è la vecchietta che magari si affaccia e ti vede che sono 7 ore che stai lì, e là parla col vicino e poi arriva la polizia con le sirene, esce fuori un po' dalla... Tu ce l'hai una rete di fiancheggiatori, collaboratori? Io ho i miei collaboratori, ma per legge sono tutti quanti assunti da un contratto e Tu non puoi usare informatori, diciamo? Ma l'informatore non fa parte dell'agenzia investigativa. Io posso avere un amico che ne so, che però sta in quella zona. Non li puoi mettere a libro paga, ecco, diciamo. Ecco, non lo posso mettere a libro paga, ci prendiamo il caffè insieme, magari un domani quando ha bisogno di un favore. Però ecco, sono persone del posto, ma non puoi sicuramente avere l'informatore poliziotto, è assolutamente vietato, l'informatore come si vede nei film. Beh, fate uno scambio di favori come succede nei film proprio, ti chiama. Nei film ne succedono tante cose, nei film succedono c'è tante uno scambio cose. Di favori. Nei film gli investigatori, quasi tutti gli investigatori sono armati, qua in Italia no, qui c'è gente che ti promette che prima o poi verrà a cercarti, cioè io ogni volta, considera che ogni volta che tu fai un'indagine. Però anch'io in effetti, tu pensa, ti rovina la vita, esatto. Ti fa le foto, magari un momento te è girata, e quel momento ti becca. Tu dici, ma però devi capire che è il suo mestiere, è chiaro, è il non suo fa mestiere, piacere. Però vai a spiegare a Gigi del Maranga a Prima Valle, capisci? E quello magari quindi dici, vivi un po' preoccupato. Fra 20 anni io ti verrò a cercare, e tu comunque magari non hai una pistola, non hai la possibilità di difenderti per quell'occasione. Vabbè, dai, col 4 che non c'è storia, lascia meglio non avercela, secondo me. Ma certo. Il treno va. Bentornati a bordo. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Quindi tu sei, diciamo, hai una licenza di polizia privata. La licenza è l'ex articolo 134 del TUPS e il 139, quindi è una licenza di polizia privata rilasciata dalla prefettura. Tu sei un investigatore privato, si può dire così? Esatto, un investigatore privato, quindi... Quindi puoi scrivere sulla porta del tuo ufficio, cioè, per legge devo scrivere nel mio ufficio fuori la porta, dove era una targhetta dove comunque investigation. Sono riconoscibile, esatto. No, la mia è l'Atlantica Investigazioni, quindi è scritto Investigation. No, Investigation era un'altra agenzia che ha chiuso da un po' di tempo, quindi suonava meglio. Non faccio nomi. Molte volte, diciamo, ci sono anche zone grigie nel tuo mestiere. Ma ci sono uomini grigi nel mio mestiere, come ci sono anche in ogni settore. Chiaramente questo è un mestiere un po' particolare dove dacci una dritta, se uno dovesse aver bisogno comunque di una professionalità come la tua, quali sono i rischi andando a cercare magari in internet, di cosa deve ecco, preoccuparsi? Per chiunque potrebbe dire vedi in internet, io faccio una guerra è piena la rete, esatto. Ma cosa rischio? Allora, il problema è questo, parto da... Sì. In passato le licenze venivano rilasciate in base al parere del prefetto, che insomma, in base alla tua esperienza, ai tuoi studi, rilasciava questa licenza. Poi, quando siamo entrati in Europa, c'è stato un buco un buco legislativo, nel senso che per la libera concorrenza, non essendoci dei parametri fissati dalla legge per diventare investigatori, il prefetto si è trovato a dover rilasciare parecchie licenze. Quindi c'è stato, che ne so, Mario Rossi, oddio, magari esiste, vabbè un nome qualsiasi, ecco, a Fantasia, che faceva il pizzicaiolo, faceva il portantino, e ha deciso di aprire l'agenzia è diventato investigatore. Quindi la prima cosa è chiedere le referenze, cioè un curriculum professionale che sia documentato, cioè anche semplicemente l'iscrizione a questa cosa che mi dicevi prima, che sei investigatore. Non c'è un'iscrizione, è una licenza. Quella, ecco. Quella devi obbligatoriamente attaccarla dietro la parete dell'ufficio, fammi vedere la licenza. Esatto, insieme alla tabella tariffica. Perché non si può esercitare questo mese, io non posso domani improvvisarmi, ammesso sia bravissimo. Commetti un reato penale tu, che ha commissionato l'indagine, e chi sta facendo l'investigazione. Quindi bisogna stare molto attenti. Ma anche se vai da un incompetente e questo fa una stupidaggine, ne rispondo io. Perché ti sei affidato a quella persona che in nome tuo e per tuo conto ha fatto quell'operazione. Quindi se vai da una persona che fa l'investigatore privato da un anno, adesso sono cambiati i requisiti, quindi insomma la cosa è stata, con il nuovo, con l'avvento del DL 269/2010, questa ambiguità è stata esatto. Adesso bisogna essere laureati, aver fatto un tirocinio con un contratto comunque di lavoro come dipendente all'interno di un'agenzia investigativa che abbia maturato almeno 5 anni, insomma. Vabbè, no, è stata giusto, è stata esatto. Senti, giusto. Una cosa, prego. Dimmi invece degli investigatori, fai da te. La rete è un pozzo senza fondo, leggi di tutto. Io dico, mi compro i kit, ci sono i kit per rilevamento di tracce spermatiche nelle mutande, kit per mettere il telefonino che intercetta le telefonate della moglie o del marito, i kit per mettere nella tastiera che legge il computer. Tutto. Se io avessi dato... rischio usandoli, però, da privato cittadino. Dipende. Cioè, se io prendo le mutande della mia compagna e guardo se ci sono tracce di sperma, insomma, non ho fatto No, ma c'è quello che si diventa fosforescenti. No. Ma lasciano il tempo che trovano, perché comunque per rilevare e prendere un dato di questo genere ci sono delle come posso dire? Ci sono dei metodi che sono scientifici. Certo, quindi, insomma, il fatto che tu. Ma io posso dare. Regalare un telefonino che in realtà è un telefonino spia che posso intercettare. Ne vendono tanti, è un reato penale. È un reato penale, questo certo, è un reato, sì. Il problema è che facendo l'investigatore fai da te vai a commettere una serie di reati dove è previsto l'arresto dai 4 ai 6 anni. Uno non può mettere una microspia in casa per controllare. Assolutamente no, interferenza illecita nella vita privata, intercettazione e... No, è bene dirlo questo, sennò uno dice faccio così. È un reato penale gravissimo, e commette il reato chi installa la microspia o la microcamera e chi ha richiesto quel tipo di servizio. No, ma uno da solo se la compra in internet la mette, c'è l'accendino, microspia, c'è tutto, hai visto? Ce ne sono tanti ed è tutto illegale. L'unica cosa che è lecita è la registrazione tra le parti, nel senso io e te stiamo devi dirmelo se mi registri o no. No, io posso registrarmi perché voglio un appunto. Ora non posso usarlo, però non lo posso utilizzare, nel senso non lo posso rendere pubblico, ma finché rimane tra me e nel mio archivio, perché che ne so, voglio ricordarmi di questa conversazione, io me lo posso tenere. Non posso io fare una telefonata, registrarla, poi mandarla in onda alla radio, dire no, perché è divulgato, sì, e quindi lo faccio lo stesso se c'è una notizia. Esatto, però ne prendo prendo il rischio. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Tornando sempre al discorso degli abusivi, per riconoscere gli abusivi bisogna stare attenti, perché queste sono persone molto astute, fanno il sito internet, noi siamo i numeri uno, noi tutti, in Italia gli investigatori sono tutti i leader del settore, certo. Guarda, sono molto... come posso dire, azzardano molto, però non c'è sono creativi. Esatto, non c'è ad oggi un ente, un albo o comunque un istituto capace... in grado di darti questa non c'è il distintivo che si tira fuori, ecco il distintivo, non bravissimo puoi. Ma comunque nessuno può dire che tu sei il leader o che sei il migliore, okay. Perché non c'è perché il mercato è sommerso, tu non potrai mai dire quali sono i tuoi risultati, cioè. Esatto, e c'è chi scrive che fa il pedinamento con l'elicottero, già insomma, c'è il drone oggi, basterebbe quello, ma non è illegale il drone, non lo puoi usare, poi non lo puoi, lo puoi usare per fare magari un sopralluogo, ma non puoi utilizzarlo perché vai a violare la persona, cioè dipende. dipende. Ho capito, ma diciamo, noi lo utilizziamo per avere l'informazione o per fare un sopralluogo o per capire cosa sta succedendo. Ma se io voglio fotografare due persone che si sono che stanno dietro il muro di casa loro, non lo posso fare, perché vado a violare la loro privacy. Queste persone si sono rese invisibili, non stanno in un posto, in un luogo pubblico. Poi magari acquisisco l'informazione perché perché so che è quello, e quindi quando usciranno li becco. Ecco, questo al cliente non dico nulla. Questo è il discorso. Tornando al discorso degli abusivi, come si riconosce un abusivo? L'abusivo ti riceve per strada, ti dice che sta facendo i lavori in ufficio, si inventa qualche storiella, ma perché non c'ha nemmeno un ufficio, perché non ce l'ha un ufficio, oppure che ne so, va all'ufficio del commercialista amico e dice no, questo è un Mette il quadro con la sua foto. Esatto, ci sono tanti, guarda, che stanno su internet e poi fa dei prezzi che sono chiaramente dei prezzi irrisori, che non hanno nulla a che fare con le tariffe che sono applicate, che vengono applicate dalle agenzie investigative. Che costa parecchio. Non è che costa parecchio. C'è un margine di rischio, diciamo, che devi... Ma c'è un rischio di impresa innanzitutto, perché abbiamo delle spese per mantenere tutta la struttura che sono importanti. Io ti pago solo se mi dai risultati, o comunque devo pagarti. Tu mi paghi, perché sto lavorando. Poi il risultato, quello dipende. Io ti porto uno spaccato della realtà. Se il tuo è un sensore che non rispecchia la realtà, ti ho levato un dubbio. Quindi perché non dovrei essere pagato? Quindi il risultato fa parte del lavoro. Tu fai anche indagini patrimoniali, insomma, uno mi deve dare dei soldi. Mi dice che non c'è una lira, tu puoi sapere cosa c'ha? Guarda, l'indagine patrimoniale è un po' particolare. Perché? Perché oggigiorno è un po' alla portata di tutti. Basta fare delle visure e capire un attimino come i beni li vedi al catasto. Esatto, la cosa che viene spesso richiesta è il conto corrente, che però per legge non si può fare, perché è un accesso abusivo a un database. Esatto, ecco, quindi siccome le agenzie investigative non hanno questa facoltà, chi lo fa commette un reato, chi commissiona l'incarico sta commettendo un reato. Questo è quello che questo è un mio parere. Poi magari c'è chi la interpreta, la legge va a interpretazione. Tu puoi vedere qual è il reddito di una persona, puoi vedere... Non puoi, perché dovresti guardare il suo 740. Puoi presupporlo, nel senso che sai dove lavora e quindi fai delle interviste, e in base alle interviste vai a ricostruire. Puoi pedinarlo, magari vai in banca e scopri che vai in quella banca. La difficoltà è che ormai oggigiorno nessuno va in banca, è tutto quanto online, quindi bisogna essere anche concreti con quello che uno vende. Cioè io quando noi facciamo un'indagine, mi chiedi una patrimoniale, sicuramente ha dei costi importanti, perché viene fatta in un modo totalmente diverso da quello che uno pensa. Non abbiamo il computer che ci dice che tu hai il conto corrente alla banca X. Dobbiamo andare a fare un'investigazione vera e propria, quindi a utilizzare dei mezzi, dei uomini che hanno un costo importante. Quando ti rincontrerò, comunque farò finta di non conoscerti, però ti disturbo. Che bello. Stai lavorando, mi dispiace. Ma guarda, è successo. È già di faccio un segno così con la bocca, capisco che ti lascio in pace. No, se stai lavorando magari dico: oh, come va, chi stai pedinando? È quel momento che guarda, è una regola che conoscono, che tutti i miei amici lo sanno, che se mi incontrano per strada di far finta di nulla, magari mandano il messaggino, perché sanno che molto probabilmente sono impegnato in un pedinamento, magari sto facendo un pedinamento. Ti vedono con la barba finta, chiaro. Ma non serve la barba, ce l'hai però la barba finta. Non c'ho niente. Non hai mai messo una barba finta? Mai, sono cose da film, non servono. Noi siamo fantasmi, non ci vede nessuno. Il pedinamento viene fatto da più persone che si danno il testimone. In quella frangente si cambiano posizione, quindi insomma è impossibile individuare una persona fisica. Poi cioè, è chiaro che se fai una cosa da dilettante... Senti, fammi un favore, avverti il tuo collega che io sto scendendo a questa stazione subito, così adesso... mi segue lui. Ciao, buon viaggio. Ciao, grazie. Il treno va. Ahimè, riprendiamo anche il doloroso e gravoso compito di dover rispondere a donne su problemi d'amore. Mi sento come quei finti dentisti che per anni mettono protesi, levano denti, fanno impianti e poi vengono smascherati, vengono arrestati, messi in galera. E loro dicono: ma in fondo ero bravo, i miei pazienti erano soddisfatti. Io so di essere diventato la spina nel fianco di chi professionalmente si occupa della tutela, del conforto, dell'indirizzo, degli animi lacerati dalle pene amorose. Io l'ho sempre detto, non è la mia competenza, non ne so nulla, non me ne è mai importato nulla, non ho nessuna passione di parlare di passioni, ma se continuano a scrivermi le ascoltatrici, le ascolto e a loro rispondo. Caro Gianluca, è tanto tempo che ascolto la rubrica finale del tuo viaggio in treno e gongolo sempre nell'indecisione se raccontarti di me, temendo il tuo commento. Ma oggi mi sento in vena e quindi eccomi qui. La storia su cui ti voglio interpellare non riguarda il suo inizio, ma la sua fine. Quando finisce una storia? Non mi riferisco ovviamente a cause manifeste come ad esempio il tradimento o simili. Mi riferisco a quell'imponderabile sensazione di scollamento progressivo che avverti verso la persona che ti sta accanto, la stessa che solo pochi mesi prima ti faceva battere il cuore. Non si tratta dell'inevitabile superamento della prima fase in cui la passione deflagra e a cui segue l'inevitabile assestamento delle emozioni smussato dalla quotidianità. O meglio, è anche questo, ma non solo. A me è successo un bel giorno di cominciare a vedere cose irritanti e persino a provare fastidio per dei suoi comportamenti, che so, il classico tubetto del dentifricio non chiuso, ma anche il suo modo di mangiare. Ovviamente so bene che in realtà questi non sono altro che sintomi e non cause. So bene che in realtà erano altre le cose che di lui cominciavano a non piacermi più. Quando ho provato a fargli notare alcune di queste cose, legate al suo carattere, lui mi ha replicato: «Tesoro mio, io non sono diverso rispetto ad un anno fa. Sei tu che sei cambiata e ora sei più esigente». Chi ha ragione? È l'innamoramento che vela ai tuoi occhi i difetti dell'altro? È l'innamoramento che ti fa offuscare la mente e ti fa vedere solo quello che dell'altro tu vuoi vedere? O invece l'uomo, in questo caso il mio ragazzo, passata la prima fase in cui mi pareva di aver trovato la persona giusta, ha buttato giù la maschera e ora si sta mostrando per quello che è. Non sarò mai un confortatore di animi devastati. Perché? Perché non do speranza. Anche questa ascoltatrice mi sembra che faccia la finta tonta. Sembra quasi che non sappia che accade esattamente così. Quando inizia l'amore, quando scatta la passione, diamo il meglio di noi stessi. Ma non lo facciamo per malizia, per cattiveria, lo facciamo perché rispondiamo a una necessità biochimica. Noi dobbiamo essere al meglio, come il pavone che gonfia la sua ruota. Perché? Perché la natura ci dice che quella è una persona con cui noi potremmo avere un proficuo atto di procreazione. Quindi è la natura che ci fa sembrare tutto bello, ci fa sembrare splendidi, che fa sì che noi ci beiamo delle frasi di chi ci dice quanto sei bello, quanto sei intelligente. Se l'uomo ho sempre cercato per tutta la vita, lo dico da uomo, ma magari noi diciamo delle donne, mi fa impazzire, non ho mai provato una cosa del genere. Solo guardarti mi sembra di ritrovare l'armonia dell'universo. E tutto ci sembra bello, tutto profumato, tutto armonico. La mattina portiamo il fiore assieme alla colazione, ci spezziamo per dare il meglio di noi stessi. Poi a un certo punto entra la consapevolezza del rapporto acquisito, scontato. Non è più finalizzato la procreazione, stiamo assieme e non ci sarebbe un senso naturale che noi stiamo assieme, perché è caduto il momento dell'estro. Noi siamo animali, gli animali hanno il momento dell'estro, fuori dal momento dell'estro non gliene importa niente, per loro uomo, donna, petalo di rosa o roccia è la stessa cosa. No, noi invece per tutta la vita pensiamo che possiamo essere gratificati nei rapporti con gli altri. Rendiamoci conto che a un certo punto la passione finisce. Se ti va di stare con una persona, che è un investimento, che qualcosa ti piace, ci stai, ma non sarà mai più come prima. Ti racconto solo un episodio, forse insignificante per te, ma per me fondamentale. Tra le tante incombenze domestiche che ci siamo equamente ripartiti, quella di lavare i piatti era toccata a me. Lo preferivo al passare l'aspirapolvere. Quando però io non ero in casa, per esempio a pranzo, ovviamente toccava a lui lavare i suoi piatti. Il risultato? Più di una volta ho dovuto lavare le pentole lasciate sporche nel lavandino quando dovevo preparare la cena. Ma soprattutto un dettaglio mi irritava più di tutti: la sua tazzina del caffè, bevuto nel pomeriggio, lasciata non nel lavandino, ma sul bordo, lì, a seccare, poggiata con mano distratta, col cucchiaino con la goccia di caffè incollato. Chiunque sa che basta versare un po' d'acqua nella tazzina e lasciarci il cucchiaino dentro per evitare la fatica di raschiare via il caffè rinsecchito per ripulirla. Ecco, questo gesto di indifferenza verso chi poi dovrà lavare la tazzina al posto tuo mi ha delusa. Mi è sembrato il classico gesto epifanico. quando l'ho lasciato. Non potevo certo dirgli che il nostro problema è stato un cucchiaino abbandonato. Ora mi darai della paranoica, ma ti assicuro che non sono né una maniaca della pulizia, né una ossessionata dall'attenzione dell'altro. Avrei voluto semplicemente essere amata. Non ti do della paranoica. Gli amori finiscono proprio su questo. Finiscono su un calzino sporco lasciato in maniera insistente per terra nel pavimento del bagno. Finiscono con gli oggetti del trucco lasciati sul lavandino, finiscono sulla trascuratezza nel cambiarsi la biancheria, finiscono nell'accorgersi che è fastidioso avere una persona vicino che ti russa, finiscono con l'improvvisa e fulminante sensazione di vedere per quello che è la persona che è stata l'oggetto della nostra passione. Quindi vale quello che ti ho detto prima: hai chiuso con questo tuo amore e probabilmente sarai alla ricerca di un nuovo amore. Inizierà la passione, tu sarai per lui la donna migliore del mondo e lui sarà il tuo servizievole amante, ma verrà la fase in cui ti ritroverai esattamente nella stessa situazione. Poi uno sceglie, fa delle scelte, vuole una persona vicino per tutta la vita, vuole avere la sicurezza di una vecchiaia confortata e quindi si accontenta, ma non è più un amante, ma diventa un badante, che è tutt'altra cosa. Avete ascoltato Il treno va. Conversazioni in viaggio con Gianluca Nicoletti, a cura di Fabrizio Intonti, sound designer Luigi Speciale.